la situazione praticamente è questa, che il Bologna è proprietario unico del centro. Dai giornali e dalle dichiarazioni dello stesso Bologna, il Bologna ha individuato una società spagnola, la GoFit, attraverso un finanziamento dai 10 ai 12 milioni di euro per ristrutturare il CRB. E la cosa strana che noi lo vediamo, che il Bologna affitterebbe a questa società spagnola per 30 anni il centro. Questa è un po' l'informazione che più o meno è girata dai giornali e che è stata fatta avanti. Solo con la differenza che qui non si sa niente, anche dalle istituzioni, dal sindaco, dall'assessore non si sa niente, che questa società spagnola dovrebbe teoricamente distruggere gli impianti sportivi per costruire edifici sportivi. Ma questo non lo può fare, perché è speculazione, perché lì ci sono i vincoli cimiteriali che non permettono questo. Lì è solo permesso una ristrutturazione del centro sportivo in conformità con i vincoli cimiteriali, che a suo tempo il comune aveva dato la deroga, che non lo poteva fare, per costruirci il famoso supermercato, distruggendo la piscina e impianti sportivi. Ecco, a oggi non si sa niente se c'è questo progetto, se questo progetto è stato portato in comune. Il sindaco Lebori insieme all'assessore Ricalzi non dicono niente, non si sa niente. E questa è la situazione. Tutto tace. È normale una città importantissima come Bologna avere una situazione così fragile contro lo sport? Questa è la situazione. Noi abbiamo fatto di tutto: manifestazioni, iniziative politiche e occupazioni, niente. Ma non è servito a niente, non serve a niente. Questa è la situazione. Un circolo così importante per lo sport cittadino, chiuso da 2 anni, lasciato proprio ai topi, alla gente che va dentro, che dorme, all'incuria, che anche poi dal punto di vista igienico è anche pericoloso. Questa è la situazione. Lei prima ricordava la questione del supermercato che è stata scongiurata. Da quel momento in poi l'amministrazione sembrava aver cambiato, diciamo, linea, ma come mi sta dicendo non avete più notizie. Lì c'è stato un accordo subdolo tra Merola, Lepore, Maccaferri, la Despar e il Bologna Calcio, che per trovare i soldi per lo stadio avevano fatto questo accordo, che poi dopo, attraverso delle lotte, siamo riusciti a far cambiare radicalmente idea, anche perché da un punto di vista giuridico lì c'erano i vincoli cimiteriali, che tutti sapevano che c'erano i vincoli, però il comune aveva dato lo stesso ok alla Despa per poter costruire. Noi siamo riusciti a bloccare questa insana politica, dopodiché attraverso anche una serie di iniziative dei cittadini, il Bologna Calcio si è fatto anche interprete di questo tipo di esigenze e ha trovato delle aziende che potevano rilanciare. Per adesso non si sa niente, è tutto chiuso, perché anche la comunicazione ufficiale del comune, dell'assessore, anche del quartiere, non esiste, non dicono niente, lasciano così. Questo silenzio, secondo me, è colpevole. Manca il ruolo della politica, perché la politica deve essere attiva a fare in modo che questo problema venga risolto, non aspettare lo Spirito Santo, perché qui mi sembra che si aspetti lo Spirito Santo. E c'è un'intera zona della città che non ha a disposizione quindi impianti sportivi. Non ha a disposizione impianti sportivi, perché oggi è fondamentale avere, specialmente anche con il discorso del Covid, è fondamentale avere impianti sportivi, avere la piscina, avere dove si gioca a tennis. C'era un bellissimo palazzetto della pallacanestro chiuso, ma noi siamo alla capitale di basket, sì. È incredibile avere un palazzetto dove si è allenata la nazionale. Io mi ricordo che venivano Bellinelli, veniva Messina, che si allenavano, si sono allenati prima delle Olimpiadi, erano tutti lì che si allenavano, potevano godere del centro, tutti i ragazzini che lì non possono usufruire di un centro sportivo. Ma scusi, ma il ruolo del sindaco e della... Io poi l'assessore non la capisco, addirittura io gli avevo chiesto un incontro, si è fatto di nebbia, non vuole incontrare i cittadini, questo nuovo assessore cosa ci sta a fare? Che vedere una distruzione di un impianto così per tutti i fini speculativi è una cosa vergognosa. Quindi insomma voi chiedete che il comune prenda parola e dica qualcosa, faccia sapere a che punto siamo, insomma. Sì, faccia sapere a che punto siamo, e calci il Bologna, perché poi non vorrei che questo, che il CRB fosse anche materia di scambio per il discorso dello stadio. Sono due cose separate. Un conto è lo stadio e un conto il CIE. circolo. Non vorrei che ci fosse questo trascinare a lungo le cose e prendere continuamente tempo. Può darsi che sia anche propedeutico a eventualmente a degli scambi che non sappiamo, ma non ci deve essere scambio, perché il CRB deve essere riaperto e lo stadio avrà il suo corso. Il CRB deve essere subito riaperto con un progetto che tenga conto dei vincoli cimiteriali. Questo è quello che chiediamo, perché poi ci sono i permessi e poi devono iniziare i lavori, cioè non è che finisce lì la questione. Quindi noi soffriamo di una mancanza di un grande spazio come quartiere e come cittadini bolognesi.